Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Ben ritrovati, eccoci ad una nuova puntata di So Info, ancora insieme per fornirvi informazioni e consigli pratici sui temi della salute attraverso uno sguardo plurale, con il punto di vista della donna, delle bambine e dei bambini. Questa settimana termineremo la trattazione del primo tema che ci ha accompagnato durante il primo mese di messa in onda, la maternità. Nelle due puntate di questa settimana desideriamo focalizzarci sulle strade per essere madri e padri alternative a quella biologica, e cioè l'adozione e l'affido. E iniziamo proprio dal significato di queste scelte. Cosa significa adottare un bambino o una bambina? Vuol dire aprire la propria casa, la propria famiglia, il proprio mondo e soprattutto il proprio cuore a un bimbo che già esiste e che per svariati motivi ha bisogno di una famiglia alternativa alla propria, che lo accolga con amore e con la volontà di farlo crescere in modo sereno. Per adottare un bambino si deve rivolgere la richiesta al Tribunale per i minorenni, che incarica a sua volta i servizi territoriali e in particolare il consultorio familiare, di verificare se i richiedenti abbiano tutte le caratteristiche per diventare genitori. Se il parere del consultorio è positivo, il tribunale emette un decreto di idoneità all'adozione e la coppia è invitata a frequentare un corso di formazione, cominciando così il percorso che si conclude con l'atto di adozione del bambino. L'adozione può essere nazionale oppure internazionale. Se si decide per l'adozione internazionale, è necessario contattare uno degli enti privati autorizzati a gestire le adozioni nei paesi stranieri. L'elenco di enti è disponibile anche nel sito della regione. Queste associazioni mantengono le relazioni con gli altri stati e si occupano di creare gli abbinamenti tra bambini stranieri e genitori italiani. I diritti dei genitori adottivi sono gli stessi dei genitori naturali. Una volta adottato, il bambino entra a far parte a tutti gli effetti della famiglia che lo accoglie. Qual è dunque il primo passo per poter valutare concretamente questa strada? Per iniziare si può contattare l'azienda ULS 9, che propone colloqui e corsi informativi dedicati all'adozione al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare, Equip Adozioni, in Viale Dalviano 34 a Treviso. Ulteriori approfondimenti nel sito www.uls.tv.it. So Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.